chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Mannaggia, sta finendo l'estate, Angelo, sono triste. Sta finendo le vacanze, manna. Quando finisce l'estate già mi sembra di pensare ai regali di Natale, porca miseria. Poi io adoro il caldo. I regali di Natale, diciamo, c'è un minimo in anticipo, direi. Godiamoci quest'autunno. L'inverno sembra così lungo, invece la primavera e l'estate sembrano così brevi che uno dice, caspita, è già passato. Insomma, vabbè, però siamo stati in ottimissima compagnia. Sì. E speriamo di avervi tenuto tanta compagnia. Senti, io però volevo, prima proprio della fine totale dell'estate, e proprio perché si ricomincia tutto un anno col lavoro, la città, gli impegni, lo stress, le macchine, le cose, capire i nostri cani, dobbiamo portarli in giro col collare o con la pettorina, questa lotta annosa, questione esatto, collare versus pettorina. Io pettorina tutta la vita, però volevo parlarne con un esperto importantissimo. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, patata, patata, apro la bocca, imbuto, imbuto, imbuto, lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, eh? Faccio l'accento svedese. Lo sa fare? Oh, faccio il numero. Nella conca! Svedese! Muovi! Patozzi, è lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Pronto? Allora, l'esperto con cui voglio parlare oggi sarebbe Angelo Vaira. Eccomi. Facci l'accento svedese. Sei peggio di Fantozzi. Vabbè. Che è tutto dire. Mi si riconosce subito. Adesso, a parte gli scherzi, siamo seri veramente, Angelo. Perché io, quando ho preso i miei cani, ho sempre pensato distinto che mi dava fastidio questa roba intorno al collo, e quindi gli ho sempre messo le pettorine. Sì. Scopro invece che non è solamente un fastidio mio, così. Perché no, infatti. Quali sono i problemi veramente grossi? Per quale motivo uno dovrebbe usare più la pettorina al posto del collo? Ma allora guarda, ce ne sono tanti di motivi, no? Uno, basta che metta il proprio, che apra il palmo della mano, no, il pollice e l'indice, e mette questa zona sul collo, basta premerla come sto facendo io in questo momento, e ci si accorge che questo dà fastidio, e così dà fastidio anche al cane, no? Questo ovviamente non ci fa vedere esattamente come il cane pensa, però ci dà una mano per capire che cosa succede quando noi premiamo il collo, perché sul collo c'è una zona bassa, c'è la trachea, attraverso quella respiriamo, ci sono vasi sanguigni, sulla parte posteriore c'è la cervicale, e infatti usare il collare a strangolo, secondo degli studi, può provocare lesioni ai vasi sanguigni dell'occhio, danni a trachea e esofago, gravi traumatismi della cervicale, svenimenti, paralisi temporanea delle zampe anteriori, paralisi del nervo laringeo, atassia delle arti posteriori, insomma un sacco di altre cose. Allora, tutta questa cosa di collare pettorine è nata molto tempo fa, quando io ho conosciuto Gudrun Feldman, che usava le pettorine, mentre io usavo un collare, usavo i collari, non a strangolo, no? Quelli normali. E lei mi aveva detto, ma una sua allieva, la mia cara amica Ania Demez, mi diceva, ma anche voi usate soltanto le pettorine adesso, non neanche i collari? Io ho detto, no, perché tanto il mio cane non tira, quindi non ho bisogno della pettorina. Lei mi disse, prova la pettorina per una settimana e poi mi dici. E io ho messo la pettorina, e sai che noi educatori cinofili, che siamo del versante dell'empatia eccetera eccetera, leggiamo molto bene i cani, certo. Per cui ho provato per una settimana la pettorina su Lucky, sul mio cane, e non l'ho più tolta. Non c'è una motivazione valida perché si debba usare il collare, secondo te? Ce ne possono essere. Per esempio, io ho avuto in casa un cane che si chiamava Kira. Purtroppo aveva un tumore, e questa massa tumorale andava proprio laddove c'era la pettorina, e quindi in quel caso ho usato un collare fisso. Ci possono essere delle controindicazioni, ma devono essere, ma sono delle eccezioni. Sono delle eccezioni, cioè almeno io e centinaia di colleghi non usiamo più con nessun tipo di cane, nessun tipo di taglia, dal mastino dei Pirenei al Chihuahua, non usiamo più il collare, neanche quando ci troviamo di fronte a cani aggressivi. Quindi tutti quelli che ci stanno ascoltando, diffidate assolutamente da chi vi dice, a meno che non ci siano, come diceva adesso Angelo, delle motivazioni più che valide, ma il collare andrebbe totalmente bandito. Ma non è che lo dico io. Che hanno il collare, non voglio fare la campagna contro quelli che usano il collare. Il punto è questo: usano il collare, Angelo, però tu vuoi bene al tuo cane? Vuoi creare una condizione perché il tuo cane stia al massimo bene sempre, anche quando va a passeggio e avere una connessione, il collare è un vecchio metodo che non si può usare. È di gran lunga preferibile la pettorina, sempre che tu sappia usarla, perché il problema che cos'è? Che molti addestratori, per poter insegnare ad un cane a non tirare il guinzaglio, a stare al piede e via dicendo, hanno bisogno di strattonarlo. Certo. Ovviamente uno strattone è più efficace col collare a strangolo che con la pettorina, questo è il motivo. Allora, la paura di molti professionisti seri oggi è che con la scusa del collare a strangolo poi si passi a strattonare, perché tanto il cane non sente nulla. Ma allora, se non sente nulla, perché glielo metti il collare? Cioè, certo. Molti dicono non crea dolore. Allora, se non crea dolore, usa una pettorina. Ah, va bene, benissimo, grazie Angelo di questa cosa. Adesso però abbiamo un ospite. È molto interessante questa fantastico. Cosa, perché vedi, questa cosa qua di collare pettorina è una questione piuttosto emblematica. Non voglio demonizzare chiunque usi il collare, io voglio demonizzare i metodi. Se certo. Una persona per educare un cane ha bisogno di urlargli dietro, dargli calci addosso, strattonarlo tutto il tempo, usare collare con le punte, aggressività, eccetera, eccetera. Coercizione. Esatto, con la scusa che questo sia l'unico modo di intervenire, perché devi sottomettere il cane. Allora abbiamo in linea una testimonianza molto preziosa di una persona che è stata prima proprietaria, poi diventata educatore, medico veterinario e comportamentalista, che ha delle cose da raccontarci. Pronto? Maria Chiara Catalani. Maria Chiara Catalani, è un medico veterinario comportamentalista e mi aiuti anche, sei vicepresidente della SISCA, giusto? SISCA, sì, che è la società italiana Scienze Comportamentali Applicate. Hai delle cose da raccontare. Che poi in realtà ha cambiato acronimo, comunque diciamo che SISCA va bene, e Scienze Studio del Comportamento Animale. Ah, bene, ok, benissimo, grazie di aver precisato. Senti, ma tu ci dicevi che hai da raccontarci proprio una testimonianza, no, su questa cosa di metodi coercitivi. Sì. Assolutamente sì, una testimonianza vissuta concretamente sulla mia pelle, o meglio le conseguenze le ho vissute sulla mia pelle. Vi racconto di Lupo, che è un pastore tedesco di grande taglia, un cane che al momento della mia visita pesava 50 kg, quindi parliamo di un cane insomma imponente. Che ahi lui ha vissuto una vita molto travagliata, nel senso che questo cane è nato e cresciuto da un giostraio che lo ha tenuto alla catena con museruola dai 3 mesi di vita fino ai 3 anni. Oh, mamma mia. È cresciuto in questo modo il povero cane, e impietosite 2 persone lo hanno visto presso queste giostre e hanno deciso di chiedere al proprietario delle giostre del cane di adottarlo. Quindi lo hanno adottato, ci sono state una serie di vicissitudini per le quali insomma poi io sono stata chiamata, perché questo cane ha dato un morso in realtà piuttosto lieve, insomma, e anche abbastanza motivato dal mio punto di vista al vicino di casa pochi giorni dopo l'adozione. Quindi io sono andata a casa di questo cane per fare la visita comportamentale. Purtroppo non ho avuto tutte le informazioni nel momento del contatto telefonico, quindi ci sono state una serie di cose. Comunque, tra le vicissitudini di questo cane, che cosa è successo? Che i proprietari, dopo il morso a questo vicino di casa, si sono rivolti a un addestratore, il quale appunto è venuto a conoscenza della breve storia di questo cane con questi nuovi proprietari, ha pensato bene di farselo portare al campo di addestramento e ha detto: guardate, questi sono cani che vanno immediatamente sottomessi, devono capire chi comanda. Per cui lo hanno preso lui. Quindi aspetta un attimo, Maria Chiara, infatti, perché dobbiamo interromperci per dare informazioni sul traffico e torniamo tra poco. Quindi cane aggressivo portato all'addestratore che dice bisogna sottometterlo, questa è la sintesi, giusto? Ok, ci vediamo tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ma stavamo parlando di cose molto serie, importanti, coercizione, aggressività. Quindi, problema di comportamento, cane aggressivo, mordace, portato all'addestratore che dice devo sottometterlo. Maria Chiara, cos'altro ci racconti quindi di questa storia? Andiamo peggiorando nel racconto, perché la sottomissione secondo questa persona, questo addestratore, significava quello che ha fatto poi, ovvero prendere il cane con 2 collari a strangolo. In 2 persone, una da un lato, una dall'altro, appena il cane è entrato nel campo, del loro campo di addestramento, è stato atterrato, strozzato fino allo svenimento, perché questo secondo loro significava appunto dire al cane: guarda, comandiamo noi e quindi non devi permettere. No, guarda, io mi sa che io mi sento male solamente a sentirle queste cose. Pratiche piuttosto diffuse ancora, perché molta gente pensa che per intervenire su cani aggressivi tu debba fare così, debba sottomettere. Però bisognerebbe, chi lo sa, dovrebbe segnalarli a chiunque in questo modo. Sì, perché sono dei casi di maltrattamento, ma non è finita qui, credo. Pure. Sì. purtroppo non... andrebbero segnalati, andrebbero denunciati, a volte si fa. Comunque, no, guarda, io, scusa, io scusate, io volevo aprire una parentesi. Intanto io c'ho il mio sito su Facebook, Twitter, chiunque dovesse vedere, mandatemi filmati, indirizzi, raccontatemi queste cose, perché appena possiamo io, ma anche Angelo Vaira, sicuramente cerchiamo di intervenire nel massimo dei modi. Però ecco, per riagganciarci a quello che ci stava raccontando Maria Chiara Catalani, la logica di alcune persone, vogliamo proprio far capire quanto è sbagliata. La logica è: visto che tu mordi, io te lo impedisco perché ti faccio vedere che sono più forte di te, con la convinzione che questa pratica possa fare in qualche modo cambiare idea al cane nel tempo. Esatto. E invece che cosa è successo? Ma in realtà, a mio avviso, il cane dovrebbe cambiare idea, e questo è insomma poi il nostro... dico nostro perché comunque condividiamo sì, i metodi sicuramente con te, Angelo. Sì. Il nostro metodo, il nostro approccio, il nostro obiettivo è quello in realtà di dare, soprattutto appunto a cani che hanno questo vissuto e hanno così poca fiducia nell'essere umano, e lo credo bene, hanno ragione, bene ad averne, certo. È quello appunto di far riacquistare fiducia, quindi di dar loro la percezione di una possibilità di interagire con l'essere umano in maniera completamente differente, quindi non certo basandosi sulla propria forza, ma su tutt'altro. Eh sì, perché poi se ci mettiamo un attimo nei panni del cane, no? Questo cane diventa aggressivo perché non si fida delle persone, ma perché che vale le ritiene uguale, una minaccia. Ma che vale uguale con le persone? Se tu allevi un bambino in questo modo, lo picchi, ma proprio quello, mettiamoci un attimo nei panni del cane. Quindi le persone per me rappresentano una minaccia, quindi decido di essere aggressivo e morderle. Vado da qualcuno. Di anticipare le loro aggressioni in qualche modo. Esatto. Quindi ed è vado... quello che Lupo ha fatto poi con me, in realtà. Poi si è verificato dopo, quindi il fatto di avere qualcuno poi che ti conferma che tu non ti puoi fidare non è che ti aiuta in questa riabilitazione comportamentale. Certo. E quindi certo, Maria Chiara, no, dicevi che dopo questa pratica qui... Dopo questa pratica qui, che purtroppo è stata omessa nei primi racconti del proprietario, per cui io non ne sono stata a conoscenza finché non è avvenuto quello che poi vi racconterò... Questo cane insomma è arrivato alla mia visita. Uh-huh. E quello che è successo in realtà è stato che nell'arco di pochissimi minuti da quando io sono arrivata a casa di queste persone, il cane stava tra l'altro rincorrendosi la coda, ma perché era al guinzaglio, e ovviamente essendo cresciuto alla catena ci può stare che l'essere trattenuto al guinzaglio nel suo giardino non fosse particolarmente gradito per lui e quindi gli provocasse questo stress. Il cane è stato liberato perché il proprietario ha detto no, ma non ha avuto grossi problemi con questo vicino di casa, ha dato un morso, ma perché gli era caduto un legno vicino a lui ed è andato a raccogliere, quindi sembrava un evento abbastanza insomma compatibile con una risposta così magari impulsiva. E il cane ha smesso di rincorrersi la coda, si è girato, mi ha guardato senza nessuna forma di minaccia che precedesse questo evento, mi ha attaccato. Mm-hmm. Saltandomi diciamo verso il viso, quindi io mi sono riparata con il braccio e l'esito è stato una grave ferita al braccio, perché poi il proprietario, chiaramente preso dal panico, me lo ha staccato dal braccio tirandolo via, e con la bocca del cane è venuta via una parte della mia pelle, del braccio. È stata un'aggressione diciamo abbastanza seria, abbastanza grave, ma ovviamente poi il proprietario, quando mi stava accompagnando al pronto soccorso, si è scusato per non avermi detto in maniera completa tutto quello che era successo al cane nei giorni precedenti, certo, e si è preoccupato di chiedermi ma adesso lo farà sopprimere. Io ho detto ma perché, povero, cioè il problema di questo cane non è lui, è quello che gli è stato fatto vivere, certo, come è cresciuto, è l'esperienza terribile che ha vissuto con questo addestratore, che poi appunto lui mi ha raccontato strada facendo verso il pronto soccorso. Certo, se lei mi avesse informato io non l'avrei fatto liberare, sarei stata in casa e avrei fatto la visita guardando il cane a distanza. Sono stata forse anche io, sicuramente allora parliamo di qualche anno fa, ero un pochino più meno smaliziata che adesso. esattamente. Però insomma l'esito poi qual è stato? Che a parte insomma il mio lungo iter terapeutico, perché comunque ho dovuto passare qualche buon mese a sistemarmi questa questione del, certo, braccio, il cane si è fatto alcuni mesi di terapia farmacologica, perché purtroppo, e questo è un po' spezzare una lancia a favore della mia professione. Io normalmente, quando posso, evito sempre terapie farmacologiche per il cane, perché se si possono evitare... Fai bene a dirlo, perché sai che poi molti addestratori dicono: ah vabbè, ma tanto ho la sottomissione o lo psicofarmaco, come se rivolgersi al medico veterinario. Ma che comunque continua a trovare parallelismi con l'uomo, con l'essere umano, con i rapporti con le persone, con un bambino che arriva da una famiglia aggressiva. Purtroppo, quando ci sono dei traumi così importanti su un individuo, che sia un cane o un essere umano, non fa differenza. Certo. Può essere necessario per il suo benessere un periodo di terapia farmacologica, perché questo gli ridà la possibilità di aprirsi a un cambiamento, perché ci sono appunto degli individui, dei soggetti che sono stati così pesantemente traumatizzati che non ne hanno, cioè non hanno proprio la possibilità di dire ok, no, non mi fido più, punto e basta. Questa sarà la mia risposta agli eventi che riguardano l'interazione con l'essere umano. E quindi in questi casi, chiaramente, per il loro benessere a breve ma anche a lungo termine, è opportuno dal mio punto di vista anche utilizzare una terapia farmacologica. In molti altri casi si può tranquillamente evitare, si può strutturare un percorso di riabilitazione che non prevede assolutamente l'uso di farmaci. Poi ricordiamo comunque che poi è appannaggio del medico veterinario comportamentale scegliere o non utilizzare il farmaco, sono suo, cioè non lo può fare né un istruttore né un addestratore, eccetera. Senti, ma Maria Chiara, come è andata a finire con Lupo? È andata a finire bene, in realtà, perché a parte, diciamo, i miei interventi, che non sono stati più possibili perché Lupo mi aveva identificato come la possibilità di rivivere quell'esperienza con l'addestratore, è molto lontana da me in realtà e dalle mie intenzioni, ma lui ha pensato questo di me, per cui quando sono andata anche a rivederlo, se non ci fosse stata la recensione mi avrebbe veramente mangiata con tutti i vestiti. Però io l'ho affidato a un istruttore di mia fiducia, che ha lavorato molto lentamente, molto gradualmente, con moltissima pazienza, per far riacquisire a Lupo la fiducia nelle persone strane, perché poi verso i proprietari non aveva problemi. E quindi adesso Lupo vive tranquillamente in questa famiglia, chiaramente viene gestito con alcune attenzioni per sicurezza, quindi quando arrivano estranei, comunque il proprietario lo prende al guinzaglio, se è necessario lo tiene nella sua area recintata. Quindi ha imparato a gestirlo, il cane non è stato soppresso. Quanto tempo è passato? Assolutamente, sono passati 7 anni. Ah, caspita, meno male. Ottimo risultato. Meno male, lieto fine, dai. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Il proprietario ci ha creduto, io ci ho creduto, ma perché per me non esiste la soppressione di un cane per un problema comportamentale, cioè può fare qualsiasi cosa, ma secondo me delle soluzioni ci sono sempre, soprattutto quando c'è una buona intesa, una buona collaborazione tra il medico veterinario, infatti, comportamentalista e l'istruttore. Quindi quello che mi è piaciuto è che si può lavorare in equip, è sempre preferibile lavorare in equip medico veterinario con l'istruttore cinofilo. Bravi tutti e due. Soprattutto credere che si possano fare le cose veramente con metodi gentili. Grazie mille. Ha lavorato con la pettorina l'istruttore? Assolutamente, certo. Hai visto. Il cane non ne voleva più sapere di guinzagli, di catene, collari a catena in sostanza. Quindi figuriamoci se non abbiamo usato la pettorina. Grazie Maria Chiara Catalani. Grazie Maria Chiara, ciao. Grazie a voi, ciao, buon lavoro. Ciao. Senti, ciao. Che poi un'altra cosa io volevo sottolineare in questo: qualunque essere umano usa aggressività, violenza, prepotenza verso i bambini, verso gli anziani, verso le persone più fragili, verso un animale, di fondo quelli sono persone represse, sfigate, represse, che siete veramente dei poveracci con un sacco di problemi. Siatene coscienti. State ascoltando un programma offerto da... Accanto ad ogni cucciolo felice c'è un amico con la maiuscola, Arcaplanet, www.arcaplanet.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E rieccoci. Eccoci qua, sempre presenti. Sempre presenti? Sì. Euphoria è ancora in braccio? Sì, perché? Farla stare un po' più libera, diciamo, qua sopra. Sì, la faccio stare liberissima, il mio cane libero e bello. Senti, tu sei compassionevole, ti piacciono i cani, ti piacciono i tuoi cani, vuoi che stiano sempre bene. C'è chi si occupa però non soltanto del proprio cane, ma anche di cani... Del mondo. Del mondo, sì. Abbiamo una persona molto speciale con noi che e Sara Turetta, presidente di Save the Dogs. Con la S, mi raccomando. Save the Dogs, che si occupa di salvare i cani della Romania. Sara, sei in linea? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Sara. Ciao. Io vorrei dire, vorrei che tu raccontassi, se riesci, accennando alle cose più importanti, perché io ho conosciuto Sara, ci siamo conosciuti attraverso Twitter, se non ricordo male, Sara. Sì, è vero, è giusto. Esatto, e a me ha appassionato perché è giovanissima intanto, adesso ha preso, ha cambiato la sua vita, ha mollato tutto e te ne sei andata in Romania a vedere com'era la condizione dei cani dopo che è rimasta impressionata da alcune immagini che avevi visto, giusto? Sì. Quanto tempo fa? Andiamo indietro nel 2001, quando 2001. Questa eliminazione di massa iniziò, purtroppo sono passati 14 anni e non è finita. Cosa vuol dire eliminazione di massa? Vuol dire che la Romania ha un problema di randagismo endemico, è il paese che a detta degli esperti ha il maggior numero di randagi rispetto a tutti gli altri paesi europei e in rapporto alla popolazione. E siccome il problema è stato totalmente ignorato per decenni, si è passati ai metodi quelli, diciamo, quelli della pulizia, insomma. Ma è vero che a me tempo fa raccontavano addirittura che la gente poteva investirli in macchina, non gli avrebbero fatto nulla. In realtà adesso la legislazione è cambiata, perché è cambiato qualcosa in questi 14 anni, almeno sul fronte della legislazione, perché nel 2001, quando sono andata lì la prima volta, si poteva fare qualsiasi cosa. Valeva tutto. Oggi non è più così. Purtroppo gli investimenti sono all'ordine del giorno, perché con questo numero di randaggi, ovviamente quelli che finiscono sotto le macchine, poi dire chi lo fa intenzionalmente o purtroppo in maniera casuale non è facile da dire. Sicuramente c'è ancora uno scarso interesse, una scarsa sensibilità nei confronti di questi animali. Sta cambiando qualcosa nelle città, dove ci sono i giovani che stanno un pochino così trainando il cambiamento della mentalità, ma c'è una larga maggioranza che li vede ancora come un po' come dei topi, come qualcosa che infesta le città, di cui liberarsi. Io ho ancora ferme lì, ma faccio un parallelo. Mi ricordo gli europei di calcio in Ucraina, per esempio, no? Dove c'è stata un'altra pulizia di massa dei cani, dove sono successe, cioè, c'era gente con i fucili fuori di casa che ammazzava i cani perché era stato dato il via libera a questa cosa, perché dovevano liberare le strade da questi cani per fare i mondiali di calcio. È una cosa che succede sempre prima dei grandi eventi, purtroppo, in questi paesi, ecco. Perché bisogna, quindi è successo per dire anche alle Olimpiadi invernali, a Sochi. Esatto, quindi a Sochi. Sono dinamiche che si ripetono sempre. Io ne approfitto per dire la mia posizione ufficialmente contro chiunque, anche organizzi, anche gli stessi atleti. È vergognoso che possano partecipare alle Olimpiadi, è vergognoso che le squadre ci partecipino, è vergognoso che le organizzino lì. Non si può fare una cosa del genere. Quando tu sai che vai in un paese che fa questo, devi bloccare se hai un po' di sale in zucca. Io mi ricordo. D'accordo con te, mi ricordo l'immagine di questi in Ucraina che prendevano un cane per le zampe e lo buttavano sai di quei camion che devono schiacciare la spazzatura? L'espressione di questo cane, che era piuttosto fiduciosa, da lì a pochi istanti sarebbe stato schiacciato nel camion della spazzatura ad opera di questi bastardi. Dare comunque una nota positiva, nel senso che comunque questi grandi eventi che poi portano all'attenzione dell'opinione pubblica queste situazioni poi hanno innescato e innescano dei cambiamenti a livello di legislazione e di atteggiamento dei governi, quindi comunque ci sono dei passi avanti. Meno male che poi almeno è servito a questo. Quindi comunque dei passi avanti ci sono stati in questi paesi, e non fosse altro che grandi organizzazioni internazionali poi sono andate magari a negoziare coi governi appunto delle nuove legislazioni o dei nuovi provvedimenti. Però tu immagina se gli atleti dicono: io lì a fare questa cosa non ci vado, perché la mia medaglia è meno importante della vita di questi cani. Questa è una posizione di persone con le palle, porca miseria. Poi c'è stato uno sciatore, credo canadese se non sbaglio, o nordamericano, che partecipò a Sochi, un ragazzo che salvò un gruppo di randaggi, se li mise in camera d'albergo e fece veramente i numeri per portarli via, e poi venne seguita da tutti i media americani questa vicenda, e lui divenne un pochino, insomma, questo atleta eroe che aveva salvato questi animali. Quindi grazie a Dio poi ci sono degli atleti che si distinguono, insomma. Per tornare alla Romania, purtroppo in Romania il massacro non è legato ad un evento, il massacro avviene costantemente, con delle interruzioni avviene dal 2000. 2001. Nel 2013, dopo un periodo poco chiaro in cui erano state sospese le uccisioni, nel 2013 è stata, in seguito alla morte tragica di un bambino a Bucarest, riapprovata una legge che dice tutti i cani dopo 14 giorni devono essere eliminati, non importa se sono giovani, socievoli, belli, brutti, di razza, meticci, vanno eliminati. Perché dopo 14 giorni di che cosa? Da quando canile, sono entrati nel canile? Nei canili pubblici, che sono dei gironi infernali, spesso i cani non arrivano al 14° giorno perché le condizioni sono infernali, noi le testimoniamo tutti i giorni andando in questi posti, denunciando questi posti, però in alcune zone della Romania la corruzione è talmente grande che stiamo avendo delle enormi difficoltà. Si parla di 300.000 cani uccisi dal primi del 2014 a livello della nazione Romania, 300.000. Quindi in un anno e mezzo 300.000, questo vi dà l'idea dei numeri, ecco, sì. Qui non stiamo parlando di qualche randagio, stiamo parlando di un paese che è veramente pieno di randagi, dove però le soluzioni sono altre, ma non vengono seguite. Tipo? Beh, prima di tutto bisognerebbe fare in modo, hanno vietato di liberare i cani randagi sterilizzati e vaccinati, come suggeriscono l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come suggeriscono le più grandi organizzazioni internazionali, perché in realtà quando hai un territorio pieno di randagi, rimuoverne un grande numero non fa altro che creare spazi ad altri randagi delle zone limitrofe che si spostano. Quindi tu devi sterilizzare degli animali, vaccinarli contro la rabbia, rimetterli, se sono sani ovviamente, no, nel territorio, perché se vivevano lì vuol dire che c'era una fonte di cibo e se erano in buone condizioni, a presidiare quell'area, facendo sì che la diminuzione dei randagi sia progressiva nel tempo e non esistono soluzioni con la bacchetta magica. Ma questo è tutto quello che seguite voi e che cercate di fare voi col vostro impegno? Esatto, è quello che facciamo noi di Save the Dogs, che sterilizziamo 3.000 animali all'anno, ma non sono solo i cani randagi, sono anche i cani di proprietà, perché la fonte del randagismo sono i cani di proprietà, e questo lo si è capito dopo anni di lavoro, che non era sufficiente agire sui randagi, bisognava lavorare sugli animali che in Romania non sono il cane che ha Rosita, Angelo, che posso avere io, è ancora il cane da guardia, il cane tenuto a catena nel cortile, però sono indietro, insomma. Esatto, sì, siamo ovviamente ancora molto indietro, ma questi cani si accoppiano, le cucciolate vengono buttate in strada o il cane stesso viene buttato in strada appena ha un problema oppure appena non serve più. Ma lì c'è una comunicazione che sensibilizza un po' le persone? Troppo poco. Noi la stiamo facendo nelle scuole, abbiamo un programma da 3 anni intensivo nelle scuole elementari. Però ovviamente noi copriamo un'area della Romania limitata, non abbiamo le forze per fare dei programmi a livello nazionale di cui ci sarebbe molto bisogno. Tu oramai mi raccontavi mi hai detto che parli il rumeno perfettamente, l'hai imparato parlando stando lì? L'ho imparato guardando in lunghe e solitarie serate quando vivevo lì, perché adesso faccio la spola tra l'Italia e la Romania, ma ho vissuto lì quasi 4 anni, la sera guardavo i film in italiano sottotitolati in rumeno oppure in inglese con un piccolo vocabolario, e così ho imparato la lingua, anche perché nessuno parlava l'italiano e l'inglese nella zona dove noi operiamo, e quindi bisognava essere creativi. Senti Sara, che dire, io tutte le persone che dedicano la loro vita così come fai tu hanno tutta la mia stima e la mia ammirazione, perché ci vuole coraggio, ci vuole veramente tanto affetto, un cuore veramente molto grande. In 10 anni sei riuscita a fare un sacco di cose interessanti. La cosa che piacerebbe a me, magari questo te la butto lì così, non so se te l'ho detto anche parlando in questi giorni, è che poi queste cose qui necessitano di una struttura, di una preparazione per creare una onlus come l'hai creata tu. Deve poi funzionare, perché non basta solamente il grande cuore per fare queste cose qua. E forse io credo che siamo pieni di tante persone che hanno grande cuore come quello che c'hai tu, che possiamo avere noi, ma magari i poverini gli manca invece la parte quella organizzativa, quindi bisognerebbe inventare un corso, qualcosa per chi ha questa vocazione, per saperla poi incanalare nel modo giusto per creare una onlus, per esempio come hai fatto tu, che oggi è molto importante. Ci sono delle occasioni formative a livello europeo che io negli anni ho seguito, ho il vantaggio di parlare l'inglese, e che sono delle occasioni che purtroppo non vedo colte dalle associazioni italiane di qualsiasi dimensione, perché ci sono già queste occasioni formative, probabilmente bisognerebbe crearle in Italia. Purtroppo sono tante le cose che vorrei fare, questa è una di quelle, e mi manca il tempo e mi mancano quando le energie. Vuoi, sappi che in questo senso ti aiuto io, perché prima di tutto perché imparo anch'io. Fantastico. E poi perché troviamo il modo sicuramente. Ma hai ragione, c'è bisogno di progettualità, c'è bisogno di strutturare i progetti, c'è bisogno di studiare, perché non basta, come dici tu, l'amore per gli animali. È quello che io in questi anni ho fatto. Io quando ho iniziato non sapevo quasi nulla, ero una volontaria capito. Che si dava da fare come tanti, ma poi quando sono arrivata lì ho dovuto studiare, ho dovuto siccome capire... il tempo vola e corre, la gente poi dopo ha buon cuore, come Angelo mi diceva, c'è tanta gente che fa volontariato nei canili, ma poi poverine le persone non sanno cosa fare di questi cani che vivono in queste condizioni, quindi bisognerebbe anche questa è un'altra cosa, capito, istruire i volontari che vanno a fare volontariato in tutti i canili d'Italia. Quello che tra l'altro ci caratterizza come Save the Dogs è un approccio che definiamo integrato, cioè noi non solo sterilizziamo, non solo facciamo il pronto soccorso, ma lavoriamo nelle scuole, facciamo porta a porta il lavoro di iscrizione all'anagrafe canina degli animali di proprietà, che è un punto debole anche dell'Italia, no? L'effettivo utilizzo dell'anagrafe canina, che diventa uno strumento di prevenzione dell'abbandono. Lavoriamo a livello politico, non solo a livello locale in Romania, a livello nazionale, a livello europeo, quindi bisogna che le associazioni abbiano un po' di visione, no? E mettano insieme più attività, ovvio ognuno ha i suoi limiti, li abbiamo anche noi, no? Però non fare solo quello che ci piace magari di più, no? Perché gestire un canile è anche qualcosa di gratificante. Sono assolutamente d'accordo. Ma per avere un impatto vero bisogna legare l'attività di la gestione del canile ad altre azioni. Bisogna agire sugli effetti ma anche sulle cause. Quando uno fa istruzione, per esempio nelle scuole, lavora anche sulle cause. Io come educatore cinofilo ho visto tanta gente cambiare grazie al fatto di essersi resi conto che il cane ha una vita emotiva, che si emoziona, che soffre, gioisce, via dicendo. E questa cosa poi ha avuto un effetto, come si dice, a macchia d'oro. No? Perché ha contagiato tante altre persone, e quindi questo è un altro modo di agire sulle cause. Ecco perché sono d'accordo con questo approccio integrato, cioè non soltanto vado a occuparmi dei cani che sono stati abbandonati o che soffrono eccetera, ma devo fare in modo di agire su quello che provoca quel fenomeno. Quindi io sono sposo veramente in assoluto Save the Dogs. Brava. Senti Sara, grazie, noi ci vediamo fra pochi giorni per la festa che celebra i 10 anni, buon compleanno qui, di Save the Dogs. Vogliamo invitare anche gli ascoltatori, insomma, se la domenica 27 settembre 2015 dalle 15:30 a Villa Castelbarco, Vaprio d'Adda, Milano. Ci troviamo pochi tutti. Minuti da Milano, vi aspettiamo, ovviamente vabbè ci saranno degli ospiti d'onore che siete voi. Grazie. Noi ci saremo io e Rosita a dare una mano. Esatto, gli ospiti d'onore, io farò un gran casino, gli ospiti d'onore saranno i cani e tutte le persone che hanno contribuito a rendergli la vita migliore. Sarà una giornata di festa, ci saranno tanti cagnolini della Romania, ma sono invitati i cani di qualsiasi paese, e ci saranno tante attività, e ci saranno delle testimonianze commoventi di famiglie che hanno accolto alcuni di questi cagnolini della Romania, quindi vi aspettiamo. Bene, grazie Sara, un abbraccio. A voi, ciao. Grazie. Allora adesso però c'era una cosa che volevo chiedere a te, perché un nostro ascoltatore che c'ha un Akita Inu ci dicono che dobbiamo salutare. Dobbiamo salutare. Leggo una frase di Soriano che può essere una conclusione anche per far riflettere. Dice: se esiste un inferno è proprio qui sulla terra, dove gli animali sono i dannati e gli esseri umani i loro demoni. E detto ciò, l'Akita Inu ne parleremo la prossima volta. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Io sono felice, eh. Sei felice? Quando si parla di animali, di cani, non posso che essere felice. Poi siamo nell'estate, che è una delle mie stagioni preferite. Dopo la primavera sono felice. Una delle, anche la primavera. Anche. La mia classifica è primavera, autunno, estate, inverno. Io non ho preferenze. Ma adesso. Come i soliti idioti. Dobbiamo fare. Va bene. Mister Perfettino. Allora, a proposito di perfezione, parliamo di un aspetto legale legato agli animali. Perché spesso la gente si trova davanti a il cane aggredito da un altro cane più grande, a me è capitato, il cane che viene rubato fuori dai supermercati, piuttosto che... No, ci sono delle cose che chi ha un quattro zampe per amico deve assolutamente sapere. Allora, per questo abbiamo deciso di avere qui al telefono un'esperta di diritti degli animali, che è l'avvocato Emanuela Emanuela Regazzi, numero uno, perché siamo di parte, è anche, la numero è anche uno. Una grande amica. Ciao Emanuela! Ciao Angelo, ciao Rosita. Ciao, ciao Manu. Vabbè, la numero uno, insomma. Dai. Non potevamo non intervistarti. Cioè, esperto, grazie. Avvocato, esperto dei diritti degli animali, qua le cose dobbiamo chiederci. Ma insomma, chi ha il cane? Quali sono le cose? Per esempio, io vado, prendo il cane e vado in città, no? Vado a spasso. Che come stanno le cose? Cosa ci dice almeno la legge? Poi. Certo, certo. Allora, ci sono cose fondamentali che ogni proprietario di cane deve conoscere. C'è questa ordinanza che è stata elaborata dal ministro Martini, dall'allora ministro Martini è ancora in vigore, che stabilisce che il proprietario deve innanzitutto essere responsabile del benessere del suo quattro zampe, deve controllarlo e condurlo correttamente nel contesto urbano e risponde sia civilmente che penalmente per le lesioni che il suo quattro zampe dovesse recare a persone, cose, animali. Per cui come si deve comportare il proprietario consapevole e responsabile? La conduzione deve avvenire sempre a guinzaglio nei contesti urbani, tranne nelle aree che i comuni riconoscono come aree cani, per cui tranquillamente il cane può essere sciolto, può essere libero, però nella conduzione urbana sempre... Aspetta, la conduzione urbana è o guinzaglio o museruola o... Guinzaglio sempre, museruola, il proprietario dovrebbe essere dotato di museruola e dovrebbe apporla all'animale nel momento in cui ci si potesse essere necessario. Un rischio all'incolumità pubblica. Ma scusa una cosa, questo vale per qualunque razza di cane? Cioè se io vado in giro con il mio chihuahua devo portarmi a museruola per il chihuahua? So che è paradossale, però effettivamente l'ordinanza non distingue le razze, per cui ogni proprietario dovrebbe comunque nella borsettina avere la museruola. Pensa che questa ordinanza non distingue la razza, invece fra noi uomini secondo il colore della pelle c'è chi fa delle distinzioni. Pensa che roba. Senti, invece parlando di condominio, e spesso la gente dice che c'è un cane che abbaia nel condominio, ci sono persone che minacciano, fanno delle cose abominevoli veramente, ma in realtà in questo caso la legge come funziona? Cioè qual è la regola? Sì, allora innanzitutto una cosa importante da dire e da divulgare è che dal 2012, per effetto di una riforma che è stata introdotta, i regolamenti condominiali non possono più vietare ai condomini di detenere gli animali in appartamento. Per cui dal 2012 ad oggi ci si augura sempre per il futuro, non ci può essere più questo divieto di detenzione degli animali nelle abitazioni. Quindi chiunque può avere affitta casa, sia che l'affitti che la compri, se ha un animale o vuol prendere un animale lo può prendere. Assolutamente. Nessuno glielo può vietare. L'animale potrà ovviamente tranquillamente anche nelle aree pubbliche del condominio circolare, ovviamente con tutte le adeguate attenzioni di cui abbiamo parlato prima, per cui sempre il proprietario lo deve tenere al guinzaglio, deve comunque gestirlo consapevolmente per evitare di creare turbativa nei confronti degli altri condomini. Ma questa cosa dei divieti che non si possono più avere vale solamente per l'affitto di una casa o vale anche per entrare in un negozio, entrare al supermercato? Anche per ovviamente i negozi, i supermercati. L'unica che ancora è in vigore è legata ai locali nei quali si producono alimentari, per cui il gestore del locale può impedire l'accesso. Ah, si producono, quindi al supermercato. Noi questo fine settimana, io, Angelo, a me non mi hanno fatto entrare perché avevo in braccio Euphoria al supermercato. Se avevamo parlato prima con, non so se ho coniugato bene i verbi, con la Manuela, potevo dirgli guarda, informati meglio perché io posso entrare. Non ma io, è questo fuori. Che non ho capito. Io vado a Milano, entro in un negozio che vende borse e sopra c'è scritto io aspetto fuori, no, del cane. Questo è ancora, ancora legale? Allora, considera che la disciplina poi è lasciata alle singole leggi regionali e anche disposizioni di carattere comunale, ok? Per cui diciamo che al momento a livello normativo nazionale non c'è una quindi se il comune e la regione non si sono espressi, cioè non si sono espressi legittimando l'accesso sempre, il gestore ha la possibilità di decidere far accedere o meno l'animale. Siamo come il solito paese dei campanelli, ognuno decide per sé, c'è una legge per tutti, però poi ognuno la può personalizzare. Al momento purtroppo la disciplina in termini di accesso ai locali pubblici è comunque lasciata alle competenze regionali e comunali. Quindi nella maggior parte dei casi il negoziante può decidere lui se far accedere o no il cane. Tristezza, ma viva Dio, sì, mamma, comunque facciamo che ha reso... facciamo un appello ai negozianti e via dicendo. Io mi chiedo per quale motivo i cani non possano accedere. Allora, io posso capirlo che in una libreria dove c'è la carta e magari va un cane maschio che ne sai, magari c'è qualcuno che è bravissimo e c'è invece il proprietario che non si rende conto, invece il cane fa pipì ovunque. Allora lì posso comprenderlo. Ma come in macchina con i taxi? Anche lì hai avuto problemi. I tassisti mi possono prendere qualunque tassista. Fino ad oggi io sapevo che quando chiamo un taxi devo avvisare che c'è un cagnolino da grembo, piuttosto che un cagnolino da caricare, un cane un po' più grande da caricare dietro. Io quando mi fermo alla stazione Termini di Roma, la maggior parte dei tassinari, se mi vedono col cane, mi dicono: no, signori, no, vada, io il cane lo voglio. E se ne va, e sto 3 ore in coda. Sono obbligati a caricarmi anche sul cane o possono permettersi di non caricarmi? Possono non caricarti, perché sono purtroppo, ahinoi, hanno la possibilità e la facoltà autonomamente di scegliere. Decidere, esatto. Bene, non dobbiamo dimenticare però, e qui dobbiamo spezzare una lancia a favore di commercianti, tassisti e via dicendo, che ci sono anche dei proprietari di cani che sono molto maleducati, certo. Cani sporchi, certo. Che non si comportano bene e che quindi questi dicono: allora la legge vale per tutti, visto che qualcuno non si comporta male, tutti quanti non entrano nel neone. Quindi bisogna dire anche questo. Senti, ma ci sono altre cose che mi preoccupano, come per esempio leggevo qualche giorno fa la notizia di uno che ha investito un cane ammazzandolo e poi se n'è andato. Ora, ha commesso, sì, dimmi. No, appunto, a me preoccupa questa cosa qua perché so che effettivamente le ultime leggi sul maltrattamento e diritti degli animali prevedono in realtà che anche questa è un'omissione di soccorso, anche se non si tratta di un essere umano. Sì. Me lo confermi? Assolutamente sì. È stato riformato il codice della strada, l'articolo 189 del codice della strada, che prevede che ci sia un obbligo di soccorso nel momento in cui per effetto di un incidente ci dovesse essere un animale ferito, e questo obbligo di soccorso sussiste sia in capo al soggetto che ha provocato l'incidente stradale, sia in capo ai soggetti che dovessero assistere ad una situazione di questo tipo. Per cui anche chi è presente sul luogo dell'incidente, vede che c'è un animale ferito e che ha la necessità di essere soccorso, ha l'obbligo di soccorrerlo. Nel momento in cui non dovesse ottemperare questo obbligo, ci sono sanzioni di carattere amministrativo pecuniario che sono inflitte a queste persone. Ovviamente saranno più salate per il conducente che ha provocato l'incidente e un pochino meno salate nei confronti dell'osservatore. Mi sorge una domanda spontanea che sorgerà, immagino, a tanti, ma come si fa, cioè questo potrebbe prendere e andarsene, cioè come si fa ad identificare questa persona? Può fare un filmato, una foto? Sì, un filmato, una foto, comunque il fatto di riuscire a prendere, perché ovviamente chiaramente le generalità di questo soggetto non si conoscono, per cui il fatto di fare una foto alla targa dell'autovettura consente comunque di raccogliere gli estremi, gli elementi che poi consentiranno ai pubblici ufficiali di identificare il soggetto responsabile di questo. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, perché poi sono cose che io ho imparato un po' con l'esperienza, un po' qualche volta chiacchierando con te, ma non sono ovviamente certo di tutto quello che penso su questa cosa della legge, però se qualcuno ti maltratta il cane e tu stai male per questo, perché ovviamente ci soffri, in un'eventuale procedura legale, non so, querela, causa, eccetera eccetera, io posso richiedere dei danni morali, perché a causa di questo gesto, cioè tu non soltanto hai ammazzato il cane, quindi non c'è soltanto un valore economico, ma c'era anche un valore affettivo da parte mia. Guarda, c'è un danno morale. Io sono preparatissima su questo, perché ci sono i danni patrimoniali, i danni morali, il danno biologico, il danno esistenziale. Sì. Hai detto correttamente. Brava, brava. Preparatissima. Hai visto? Poi dice che sono io quello della penna rossa, ma penso. No, perché ho voluto renderti la pariglia, scusa, che pizza. Smacco. È sempre lui quello preciso che sa sempre tutto, per amore, carità. Mi sorprende, tanto di mi cappello sorprende. Perché coi cani veramente è il numero uno lui. Io e sono la numero uno delle fancazziste sul ridere e far casino. No, quindi Manu, aspetta, quindi Rosetta, quando uno quindi fa male al mio cane, che cosa succede? Succede che effettivamente, innanzitutto. Ah, no, scusa, Manu, io chiedevo a Rosita, però effettivamente, siccome l'ho vista corrucciata. No, se vuoi te lo dico, dove sono gli occhiali? Ma lascia perdere. Te lo dico. Allora, c'è il danno patrimoniale che è compreso nelle spese mediche, veterinario, visite mediche. No, io ti dico, la domanda è un'altra. Allora, uno fa male al mio cane, ok, lo azzoppa, lo ammazza, lo fa perdere e io soffro per questa cosa qua. Sì. Si chiama, se vuoi cercarlo lì nei tuoi appunti, si chiama danno morale. Danno morale. Allora, esatto. Io posso chiedere i danni morali. Puoi chiedere danni morali. Esattamente. Il proprietario che sì. si preoccupa per il suo cane che ha avuto un incidente. È chiarissimo. Allora facciamo intervenire Madonna, la nostra odioso, guarda. Ma veramente. Ma Manu, senti, frequentiamolo di meno. Andiamo a pranzi io e te come facevamo una volta. Dai, scherzi a parte, Manu, raccontaci un po', quindi che cosa succede? Hai detto una cosa correttissima, nel senso che il proprietario ha la possibilità di essere risarcito sia per il danno morale, che sono i patemi d'animo che tu sostanzialmente sostieni per effetto di veder soffrire il tuo cane che ha subito questo maltrattamento, e non solo, hai la possibilità anche di essere indennizzato per il danno esistenziale, nel senso che il danno esistenziale è un pochino più difficile da provare, ma nel momento in cui tu sei in grado di provare che la tua vita ha subito un'alterazione della qualità di vita per effetto di questo episodio che ti ha così diciamo radicalmente turbato. Sì. Faccio un esempio, questa aggressione avviene durante una passeggiata con il tuo cane e il tuo cane viene aggredito da un altro cane. Tu, a fronte di questo episodio traumatico, non riuscirei più a farti questa passeggiata serena con il tuo cane, perché la preoccupazione del fatto che possa nuovamente succedere lo stesso accadimento non ti consente più di vivere serenamente la passeggiata e comunque il momento bucolico ed idilliaco della passeggiata con il tuo cane. Questo è il danno esistenziale, anche questo può essere risarcito. Proprio perché la tua vita sconta la tua qualità di vita è notevolmente peggiorata a seguito appunto di questo episodio. Ti ha tolto le parole di bocca. Assolutamente. Ti ha tolto le parole di bocca. Infatti, guarda, ho solo notato che scalpitava, no, da questa cosa. L'esempio mi ha letto nel pensiero. Citato da Emanuele, mi ricorda Tiziana Scalisi, che è un'amica che salutiamo, sì. Che in Sicilia è stata aggredita, lei e il suo cane, da un cane lasciato incustodito, e le ha provocato non pochi problemi, perché poi ovviamente ogni volta che usciva lei era spaventata da questa cosa. Grazie Emanuele Regazzi, avvocato esperto in diritti degli animali. Ma grazie a voi. Senti cara mia, ci vediamo a pranzo. Io già e basta. Ovvio. Salutatemi l'host. Salutatemi. Bel bicchiere di vino, vai. Non mancheremo. Ciao, Manu, grazie. Un abbraccio grande. Ciao. E anche per oggi è finita questa giornata in compagnia nostra. Sì. Abbiamo finito di già, ma il tempo è volato. È volato, ragazzi, è volato. Ci vediamo alla prossima. Un bacione grande da Rosita Celentano. E Angelo Vaira. Chiedimi se sono felice, @radio24.it.